poveretti, dai, divertitevi. Tutto qua. Ciao ciao. Ciao ciao Fra, buona serata. Affidati un caso, Gervetti. No, veramente devo andare a preparare la roba. Capito, va bene, avanti, avanti Natale. E ciao Fra, buon divertimento, alle prossime. Salutatemi tutta la 27. Ciao. Ciao, ciao. E a da te Fra. Avanti. Avanti Natale. È entrato un altro che ha detto via da te Fra. Chi è entrato? Un altro ha detto via da te Fra. Io lì ho girato tutto, Limone, Sirmione, Riva del Garda, tutta quella zona l'ho fatta per 3 volte. Ci siamo fissati perché ci è piaciuta a me quella zona. E ci abita la figlia di Lucia lì, stanno andando per quello. Già lo so che abita la figlia. E ci vanno ogni anno, ci vanno. E sono dei bei posti comunque, sono dei bei posti. C'è tanto verde, la Talina. È praticamente come Portocervo e Continente, la stessa cosa. C'è la zona vecchia, tutta fatta, c'è una arcata grande per entrare nel paese. Prima di entrare proprio dove ci sono tutti i negozi, tutte le cose, c'è la visuale del lago di Garda, che è enorme, sembra mare, non sembra manco un lago. E poi è tutto fiorito, tutto con fiori di tutti i colori, questa cosa mi ha proprio entusiasmato, cosa che qua non si vede. Tutti i giardini sono tutti fioriti. Io ho capito. Eh beh, sono bei posti, sì. Mia moglie da poco è andata lo stesso in Continente perché c'era il matrimonio del mio vicino, questo qui, questo medico che c'è qua di fronte a me. Si è sposato con la moglie, che è dottoressa pure lei, su lui è pigliando la specializzazione a Cagliari e quindi si vedono una volta alla settimana. Ho capito, vabbè, dopo quando si sistemano si riuniscono, tanto si fanno, si instradano il lavoro, piano grido. E vabbè, e come mai sposato in Continente se lei a Cagliari e lui è qua? No, sono continentali tutti e due. Lui lavora qua a Sassari, che è specializzato in psichiatria infantile, e lei sta prendendo un'altra specializzazione a Cagliari, in geriatria, lei si deve specializzare, capito? Lui è già specializzato e lavora qua a Sassari, lavora, è specializzato in psichiatria infantile lui, Giorgio. E Cristina deve diventare geriatra. Cappagrappa, va bene, dai. E tutti e due poi avranno dei grossi stipendi, saranno bene. Sì, non ti gridino. E poi è sacrificato quel Giorgio, cazzo, fa dei turni massacranti tutto il giorno, 12 ore, la notte, fa dei turni, cazzo, micidiali. E non ti gridi che siano i bagadassaini. Già sono pagati, almeno 2000 euro li danno, minimo. E che cosa vuoi che sia, ma uno che ha studiato tutti gli anni, bovaraccio, e che deve fare quei turni massacranti, oggi esce alle 9 di notte, dalle 9 del mattino alle 9 di notte, 12 duri, molte volte tutto il giorno, e poi c'è anche quando deve fare la notte anche, quindi praticamente è sempre impegnato, bovaraccio. Lo so, perché adesso la sanità è così, prima stavano bene i medici, facevano il loro turno e via, ma adesso non è più così la sanità, perché i medici sono quelli che sono molto pochi, stanno chiudendo molti ambulatori anche nei paesi, si stanno lamentando perché non c'è più, in certi paesi non c'è nemmeno più la dottoressa senza di questo di base, né niente, è un dottore di base. E stanno stringendoci da quando poi ci faranno pagare. Ci faranno pagare per fare tutte le operazioni. Aspetta già che sono. No, anche alle 7:30 puoi venire, dai. Va bene, allora, alle 7:30. Sì, ciao, ciao. Non mi è passato per un film. Oh, signor, era al telefono già. Ah, ho capito. E comunque, è così, Natali. Quando fanno questi tagli così, è normale che poi li fanno fare tutti massacrati, perché i dottori sono incazzati, anche al pronto soccorso, lo fanno apposta a rallentare le cose, per capire che sono in pochi e cercare di far protestare la gente, di modo che mettano qualcuno in più. Ma in effetti sono pochi, non so quante unità ne mancano. Già lo credo di fare un incendio di massacranti, bovaracci. Stanno andando a catafascio la sanità già. Sì, è così. Da quando l'hanno privatizzata e così. Prima andava bene. Perché funzionava come si deve. Se ti devi operare, devi avere gli incontri per operarti. Ma dove stiamo arrivando? Devi aspettare mesi. Io vera dolori, non ce la facevo più, Natalia. Non ce la facevo più. E quindi ho dovuto, per andare lì ho dovuto avere l'incontro, sennò non mi operava. Ma è da un po', se uno deve operarsi deve avere i corsi, buono. Ma Gesù Cristo mio, dove stiamo andando a finire? Dove stiamo andando a finire? E io quanto tempo sono? Sono cazzo 3 anni così, che non riesce a farmi operare, cazzo. Ma roba da chiudi, che non riesco a camminare, io faccio 100 metri e mi viene un dolore alla gamba, cazzo, allucinante già, non si può descrivere. Io non dormivo manco la notte, Natale, dolori forti da alzarmi a grida come bambino. Non riuscivo a stare dal dolore fortissimo, ma proprio una cosa indescrivibile. Prima e dopo che mi hanno operato, per 3 mesi sono stato a dolori, io non ti credere, dopo che mi hanno operato ho risolto tutto. Per 3 mesi dopo che mi hanno operato ho avuto i dolori forti. Già lo so, non ho bisogno mio di che siamo abbandonati, diciamo, a noi stessi. Si può andare all'endocrinologo, mi sanno dovuto mandare a cazzo a Chiesi e non ha cavato un ragno dal buco. Mi ha prescritto questa vitamina D e boh. Ah, va a cazzo. Ah, boh, che forse ha la risonanza magnetica e che vado da quello di Sassari che mi ha rifiutato la visita, ma non è faccio, vado a fanculo. Allora faccio l'esame, quello del diabete e basta. Non mi mandi a fare altre visite perché non è faccio, dico. Quella stronza di Chiesi mi ha prescritto esami che nessuno mi voleva fare, già io non posso camminare, dottore. Dico, non mi mandi più le visite di routine e basta. Perché non c'è un cavolo, la risonanza pure io l'ho fatta, l'attacco lo stesso. Non mi mandi a fare nulla che non ne posso intanto. Ridico. No, il mio è più elastico, dai. Il mio è più elastico, Natalia. Beh, ho visto che l'hanno operato quest'anno, l'esame cardiologico l'ha fatto, quindi non gliene faccio fare. Intanto si è operata a dicembre, quindi non c'è bisogno che lo faccia. Mi faccia solo fuzzoculi e poi l'esame dell'urina del sangue, le 24 ore, l'urina 24 ore del sangue, però quella dicembre. Io a me mi butto le urine e l'esame del sangue devo fare, e poi gli esami che mi ha fatto fare glieli do, e chi si chiede usare. non ne posso, perché non le faccio. Già, cazzo, ero prenotato, vado alla visita, che me l'avevano annullata, quella dall'endocrinologo, va a fanculo. Ah, vai, cazzo, che andate a Tiesi, a Tiesi, non me ne ha scappato, veniva da cazzo, mi rompa le balle. Non vado più da nessuna parte adesso. Oh, ci ne resta Eddie, e mi ricordi, mamma mia. Ti fanno fare mille visite, spendere, fare, uff. Cavolo, a volte sono troppo esagerato. E infatti, ma ti pare devo fare un'altra risonanza? Se a me mi l'hanno fatta ripidare la risonanza, la DAC, sono arrivati a quello, dalla DAC e dalla risonanza, no? E che vuoi che ti dica la tariffa? Purtroppo è così, è così. Ma cosa ci vuol fare? Purtroppo sono loro che ti mandano, ti fanno, se non fai quello che ti dicono, la prossima volta non ti fanno visita. Non ti visitano, nemmeno, perché è inutile che mi venga qua se poi non fa quello che devo che gli dico io. Ma meglio se non mi visitano, mi controllo il diabete e basta. Cazzo, cosa me ne affutti della visita retta? Ma come visiteggia? Si scrive gli esami e buche, fai e basta, ma non lo passato, usa di visiteggia. Anzi, se mi elimina queste visite ogni 6 mesi di andare da lì a rompermi le balle è meglio. Cosa me ne affutto? Ma va fatti, buca. A volte sono un po' esagerato, io ce n'avevo uno, la stecca bianca, l'ho cambiato subito, mi pare a mezzo dormito, bah, come parlava, tipo, all'allentatore. E ti faccio fare un bel esame, ha cominciato una sciarada di esami, sono stato mesi che stavo facendo sempre visite, alla fine mi sono tolto le scarpe e me le ho già fatte, non mi piaceva. E infatti se mi ero passato le balle e dico vabbè adesso me ne vado a San Camillo, come si fa a cambiare il medico, le dico. Fai lì dove a Palazzo Rosa e te lo cambiano lì. Devi chiamare il culo. Occu. Infatti chiami la di Luca, non ha compreso che come me rompe le balle me ne vado a San Camillo. Mi ando da mi dice che devo andare a fare l'appuntamento e da voi ha finito e rompimi le balle. Luca, te volte te le fa fare il visita? Cosa? Il visita molte te le fa fare. No, io faccio sempre le solite, prelievo e qualche volta le urine vuole. Basta, non me ne fa fare altre. A me quello cardiologico e fundus oculi che ho fatto oggi a Porto Torres. Tutto lì. Ho fatto anche il permesso. Bravo, bravo. E a dicembre scade comunque, capito? Lo so. Il problema è che l'ho fatto ma non so dove andare a pescare perché adesso ci sono i bagnanti, un casino, dai. Prima si andava al molo, quando c'erano le bagnanti andava al molo e pescava al molo, ma non si può più fare. Sì, la sera sì, ma la sera si può andare già. Certo non ci devi andare quando ci sono i bagnanti, no? Anche perché col caldo che c'è, capito? Ma la sera è di lusso, dopo le 8 che c'è anche fresco. Io vado dalle 8 alle 11, 11 e mezza, a volte anche a mezzanotte, andavo così. Però adesso non lo so come sia, io mettevo già il portacanna con le canne chiuse, no? Di modo che prendevo il posto. Poi come se ne andava la gente, cominciava a aprire le canne e a lanciare. E l'ora buona è quella, dalle 8 alle 9, se da voi peschi qualcosa, peschi qualche mormorone e qualche razza. Le razze di lì le ho preso diverse, però tutte della stessa pezzatura. Si sa quindi andare a piccare, cioè. Un casotto. Ah, qualche volta ci andiamo, là. Ma io adesso ho scappato che non so più niente. Più nulla. Mulinelli già ne ho, che mi hanno regalato. Ma di canne ho solo. Sono andato a legging, spinning e boom. Fai spinning, ognuno fa la pesca che vuole, no? Io spende troppo a fare certi cazzi, perché stiamo parlando con Franco anche, i cazzi veri mi costano molto dire adesso gli americani, lo sai. E uno dice, finché vado in un posto dove ne tolgo le spese, a me, ma se tu fai rimetterci non conviene. Io solitamente ne prendevo 6 scatole di vino, da mesia le 8 scatole, quando andavo a pescare. Se era il giorno che non mangiava, mi libera a pulire della sabbia, perché tanto poi non ci ritornavo, capito? Io sono sicuro che se tu vai dove ti ho detto io, lì dove c'è la chiesetta, c'è da scendere, però io sono sicuro che lì si pesca bene ancora. Ma devi avere galleggiato, io pesco a fondo. No, a fondo, e anche io mai beccato già galleggiato, a fondo. Quasi in tempo a accusarmi che era già ti rendi, che emozioni, che ogni pigiata di canna, ma a zannira da bui. Oh yeah. Ma ti si staccano, perché sono sospesi in alto, ci vuole il colpo a paracadute. Ah, io non ho mai avuto il colpo. Sì, ne ho persi, ma su 10 che ne prendevo ne perdevo uno, sì o no, capito? Ma Saraguni, Saraguni. Già lo so, lì era quella zona. Ma via! Oh Luca, da un chilo l'uno erano minimo, se non più grandi pure. E dove nata? A Cacciedusaggio, Bereda Robusio. Mi di là Franco, ci avevamo il corpo di Franco che è lungo, non ve arrivindo, è troppo alto lì. Cazzo, ci lo buvarà anch'io, come toccava la roccia lo perdevo. Cazzo, mia Sara, come Sara che però, vedi maduri. Ma di sotto, te lo ricordi la Sara? Se sardo ognuno, cazzo, guarda, paurosi erano. E ti sto dicendo, si era potuto fare in chivi, cazzo, ma avevi meno distanza, perché come tocchi le rocce ti rompe la lenza, non c'è nulla a fare. Ma a me non mi piace sulla roccia, dalla volta che siamo andati a pescare a Sentino, che è caduto quella vincolio, c'è faccia di un razzo, no, per carità, avevamo i filaccioni per i grovi, e uno è andato da una parte e uno è andato all'altra, poi c'è detto bla bla bla bla bla, e ho detto, che c'è qualche grongo. E vado a guardare giù con la pila e vedo lui giù, quasi con la testa dentro l'acqua, a cabingioso, è caggiuto. E meno male ci avevano fermato i carabinieri, dopo veniamo a trovarvi dove siete, e sono venuti e ho chiesto aiuto, mi hanno aiutato a portarlo su, l'hanno portato prima la guardia medica qui all'ospedale di Sassi, la scappa l'ha spostata, sudagliato, poi... Le rocce è pericoloso, Ma lì a mare di Vura, onde chissà tutta la roba che v'è, in chi vi ha pecchi a vivi. Solo che è troppo alto il posto, è un casino. Già io non posso camminare, mamma mia. Infatti non so dove andare a pescare, proprio malissimo. No, a me piace dalla spiaggia, prima non mi piaceva, poi da quando ho cominciato a pescare, perché prima ero convinto di non vedere nulla, poi ho cominciato a pescare e ho cominciato a piacere. Poi ho preso una bella olata, prendevo borboroni belli, ho preso un polpo con la carta, ogni auguro. E invece mi si è fuggito via l'altro durante un pezzino di 6 anni. Ma qui per il fratello chi si abbia dimenticato il goffo dalla vacca, vero? Quelli lì, secondo come sono presi, ti scappano. Ma io ho avuto fortuna perché il polpo con la carne è difficile a prenderlo. Era bello un chilo che era mezzo sarà stato. E io c'avevo l'amo piccolo e si è attaccato a quell'amo lì, come si è visto pure all'acqua, con un brinco, un gatto, e si è avviata, con una impruzzata, via! Vamos! Ma io cosa ti dico, ho pescato la stella marina, che io non sapevo che mangiava così la stella marina. L'ho trovata attaccata all'amo lui. Lo so, cosa vuoi ti dire. cosa dove ci dovrebbe pescare bene? A Mare di Furi, a Coso, a... Bah. A Coccia di Donna, a me lì. Cazzo, lì sono andato con mio fratello a saltarne un palamito, gli a venire a bocco di roba. Cazzo. Denti, c'era un... uno degli sigoffanti, gli a venire a bocco di roba. Ecco, però lì è Mare di Vura, devo andare con la vacca. Gli accessori così per passare anche, c'erano due che venivano in pescheria, li sceglieva i granchi apposta, quindi già scendi per i belli, domani vi faccio vedere le fotografie del pesce che prendo, roba di sana che bigliava, si prendeva una ventina di granchi, li sceglieva apposta, i forruggetti con la paletta, perché li voleva un po' piccoli, capito? Piccoli vogliono, e allora? Ti mangiano i dighissi. Ma lui ha detto che poi ha capito che anche quelli grandi, ma sai che l'Italia a metà e li mangiano lo stesso. Ma che vuoi che ti dica? Oh, io le canne da lancio ne ho due qua, cazzo, belle amprose, cazzo. Ma canne a vero, so, vici. E poi c'ho anche quella per pescare... Coso, ma come si chiama? A Bolognese, c'ho due canne da aging, due da porto, ne ho di quelle per i pontili, quelle piccoline, già le hai viste con i cavalletti, quelle piccoline, che mettevo il cucchiaino, quelle lì sono di lusso. Io ce le ho da 3 mesi, 3 mesi e mezzo, ne ho 3, tutte così sono, però lanciano bene, perché lancio bene io, quindi il lancio già lo faccio lungo. E anche io, una bruciata a gatto, andando a me con Franco, cazzavamo 2-3 giorni perché andavamo al camper, no? Cazzo, roba di divertimento già. Una tanto di quasi a me un caffè, quando dovevamo cucinare, cucinava, mi era tutto diventato un camper, potevi fare il cazzo che volevi. Il camper è comodo, sei un punto d'appoggio. Io invece il camper non ne ho, sono un gubbovaro, mi coricavo nell'asciugamano, mi mettevo il segnalino, quando vedevo il segnalino che si muoveva, c'erano le starlight, vedevo le starlight che muovevo, si mi alzavo e tiravo. Si vedeva bene, se no si abbinava in luce, ricontrollavo l'esca ogni tanto e via. Però io ci sono andato anche da solo, un medico. Lo so, io devo trovare il posto dove posteggiare la macchina e fare pochi metri, perché a portare l'attrezzatura, questo, quell'altro, io se posso più di 100 metri, cazzo, mi viene su due all'acqua, allucinante, è quello che mi rompe le balle a me, io non posso camminare. Io c'ho un bel roba e pesa, c'ho tutti i ricambi, c'ho le manovelle dei mulinelli, c'ho ricambi, c'ho un sacco di roba, lenze, piombi a gogo, tutti i tipi. La mia sacca pesa per quello, infatti si è rotto il manico. E io ho giocato una borsa, una cassetta, da poi va giù un altro coso, un altro zaino, non ti va giù la roba da aging, figurati. Ma che vuoi che ti dica? Se vuoi pescare ti devi attrezzare, io addirittura mi porto già gli ami già piazzati sul sughero, arrotolati di modo che di notte li ho messi chiudi, come si fa col palametro, li ho messi chiudi, ho fatto l'occhiello, li metto attorcigliati al sughero, nella canna c'ho il moschettone, non faccio altro che attaccare al moschettone, senza affannarmi di notte e Anche io ce li ho così pronti all'uso. Ma nei minori, tutti i caridai. Ma non ho bisogno che andato manco una voce a picca. Cesso, cazzo, che vergogna. Cioè vergogna, cazzo, perché non puoi camminare quando è così e l'offio. Ma se vai dove andavo io lì, a Milo, al presidio militare lì, fa le scale e ci arrivato. Ma lì non c'è un cazzo, se mettono le reti vicino alla riva, cazzo, mettono le reti troppo vicino lì. Io li ho visti mettendo le reti quando sono sceso a pigliarmi un po' di sole, che c'era Bruno pure, eravamo assieme, e eravamo visti a Iti ponendo le reti in basso, ma io ne vado a far culo. E mettono con le barracuda, con la maglia fina, pescano tutto, capito? Si sta stare in luce. E anche palami ti buttano, però io ho sempre pescato lo stesso. Io andavo la sera dalle 8 fino alle 11 mezzanotte e sempre qualche cosa l'ho presa. Non dico sempre, qualche volta è capitato che non ho preso nulla, ma poche sono state le volte che non ho preso. Ma pure Bruno lo stava dicendo, non c'è più un cacchio da pescare. Bruno si ha venduto tutte le canne, tutto quanto si ha venduto. E lei è un appassionato, mi. Come figlio di Piccadore, Bruno? Bruno ne ha venduto una da poco, di canna, l'ultima che aveva, presumivo. Si ha venduto tutto. Oh, yeah. Un casino, vabbè, ma si può sempre tentare, Natali, come è che tipo quelle i granchietti adesso all'imbrunire, vai con un pezzo di legno, li leghi una sardina, le metti nella battigia e ti prendi i granchietti, te ne prendi di esca, te ne prendi poca, a casa, quando vai lì ti prendi i granchietti e neschi i granchietti. E già andrò, perché cazzo a me mi piace. Se no a pescare col galleggiante, sono un calamento io, cazzo, che brumeggi e tutto, e da voi buoni le caghi voi, a vederla si pecchi un ghisso. Sto pasturatore, a fondo. E allora, il galleggiante col pasturatore, cazzo, ce li ho già pronti, cazzo, pronti all'uso. Sai quante volte ho pescato così, ci mettevo i vermi dentro, ti fa pasturatore e poi ci metti i vermi negli ali, ne metti due interi e uno a bandiera di modo che si muova, lo vedi quanti mili, però a me non mi piace la pesca galleggiante, c'è una lenza troppo fina, a me piace più a fondo. Già lo so, ma la spiaggia lì io ne ho. Allora neanche legging? Canne, con due bei mulinelli. Anzi, un altro bedo maduro, ma stessi, di mulinello in più. E sono canne buone queste qui. Per pescare a galleggiante ce l'ho la canna, quella con quel calamento che ti stavo dicendo. Lì se vai dalle rocce, cazzo, ti fai a me. Lo so. Ma le rocce, ti ripeto, io non posso andarci nelle rocce. Uno, perché sono stato operato alle gambe, ho paura di fare dell'equilibrio, di farmi male. E due, perché da quella volta che è caduto con mio amico, no, meno male che c'erano quei carabinieri, sono dovuti aiutarci, cazzo. Se no capitavo, va via un gambo, è scivolato in quella merma che si forma nelle rocce, si è farato, ha rotturato, si è farato con un gabinetto. E infatti, poi cazzo, andare di notte nelle rocce è pericolosissimo. No, no. Anche io temo nelle rocce. È per quello che a Castelsardo io, cazzo, li ho persi quei. A Giovito si cazzo mi sono andato, barazzutta. Cazzo di Nazara, mamma mia. Forse erano più di un chilo l'uno. Ero con Franco. Un ghisso caramento che tiro di sendi. Cazzo si ribecchi. Lo so, però pigliare è un casino. Quello è bello andare in barca, allora già ripigli tutto. Se c'è la barca, sì. Ma lì a Castelsardo c'è sempre pescato. Pescano anche dove entra quel rigagnolo di acqua. Non so cosa sia, se sia un fiume o cosa sia, ma forse lo stagno. Entra questo stagno all'interno, dove si mettono lì, dove c'è il ponte. E le prendono, spigole, di tutti i... E lì sì, lo so. trovare qualche posto bello per andare a pescare. E io non so come più scendere, se no era andato e mi era visicato un bel drugo. E a settimo pettine che ci va per il genere. Però a settimo pettine se è un bellaccio, prendi roba grossa, ha pigliato una rata questa qua che era enorme, e la buttata in acqua, ha detto tanto noi non ne sappiamo fare di rata. E che l'ha detto che non ne sappiamo fare? Non sei uscito mezzo passaggio già, non hai schiacciato bene. E cosa vuoi che ti dica? E Franco ce l'ha un bel lancio, anche io. Però Franco va una bruciata tremenda. E c'ha anche le canne da lancio. E anche io ce le ho quelle, però avere cazzo la frustata che c'ha lui, cazzo per da voci, si manda in casino di lenti. Ma adesso ci sono i droni che te le portano. C'è di usare il drone per portarsela là. A te le immagini. Poi non so come facciano a mollarla, pure non l'ho mai capito, però. Ah, ce ne sono diversi di metodi per portarla al largo. Ci sono quelli che usano quei motoscafi modellino di quelli che vanno sull'acqua. Ci sono quelli che usano tipo un tiralastico, che la lanciano così. Vabbè. Ci sono, ma la pesca sportiva è quella. Vabbè, io l'ho portata al largo con le pinne, la portavo al largo, un giorno sono andato a pescare, la portavo al largo con le pinne. Sono andato 5-6 volte, ma a largo, ma Roma, 300 metri dalla riva. E questo signore, quando ho pescato un'onata, mi ha detto, già se l'ha sudata, ma se l'ha meritata, però dai, ci stavo contando, è andato 5 volte a largo. E io al grido. Ah, oh, Franco c'ha un tenderino, mi volendo le portiamo a largo così. Io sto attento alle canne, lui le porta a largo, molto ci vuole. Quando lui le butta io chiudo gli archetti e poi apro la frizione, molto ci vuole. Vabbè, ma quando andavi al molo l'acqua già era alta lì, capito? Facevi il lancio anche di pochi metri se eri già nell'acqua alta. Ma se non ne trovi posti così dove andare, che non è pericoloso, io sto cercando posti così, però a questo d'ora dimenticai già di ruba cosa è pieno di telecamere, ne puoi tu li cancelli, è tutto usarrato, se tu entri in chivi, qua, tassucci, come ti ne va, tutto hanno chiuso, dove andavamo noi. Ma sicuro sì, ma dove c'era la fontanella, sotto, perché se passi sopra c'è il cancello, ma sotto, dove c'è il rifornitore lì, non ci dovrebbe essere il cancello, non so, poi io non ci sono più andato, non so come sia. Cazzo, sei passato da capitaneria, alla capitaneria e non sei andato a vedere. Cazzo, tu entra in chivi, la di chi fa la pozzatura e mi dici, avevi ragione Natali. Ti sequestrano tutto, se ti trovano lì, mi dici, questo è già nel tutto, a parte che ci sono i cancelli dove puoi entrare. E poi è pieno di telecamere, subito arriva la capitaneria e ti dici, qui sarei già canto bene. Vabbè, non sei mai potuto entrare al porto a pescare, però prima non facevano e ti levano un occhio. Poi so da un amico che hanno messo multe esorbitanti a chi pescava lì, quindi non conviene più 1.000 euro, 1.200 euro di multa, stiamo scherzando. Ehi, è quello, che ti mettono la multa e ti sequestrano tutto. Cosa cazzo, non conviene più. Bisogna cercare dei muli, magari lontano da Porto Torres, che siano aperti, in modo che non ti possiano irrompire i cattoli, e allora puoi andare. Posti che non sono pericolosi per non andare sulla roccia. Sotto il ponte di Fertiglia. Come? Sotto il ponte di Fertiglia. Sotto il porto? Dove c'è il ponte a Fertiglia, ce l'è presente, sotto, lì si pesca. Se non c'è da camminare, basta andare lì, io non lo so dove. non mi so come è andato in Chivi. E a Fertiglia, andando a Fertiglia, c'è il ponte, sotto lo... c'è, diciamo, non è proprio, è acqua salmastra, dai, perché viene dal mare. Mio cavè, bisogna vedere se si può andare, magari andiamo in Chivi a provare, cosa vuoi ti dire? A Fertiglia si può andare, dove c'è il moro. E poi ho sentito che bisogna essere residenti in Chivi, sennò ti si mandano. Sì, a me, io qua me l'ho stampata per miracolo, Natale, la forestale proprio. Abbiamo visto la forestale, abbiamo pescato due orate, un sarago, eccetera, eccetera, li ho messi tutti quanti, c'era un resecchio, li ho buttati subito dentro il borsone, l'ho chiuso, sono arrivati loro, buongiorno, buongiorno. Voi da dove venite? Siete di qua, residenti, però io sono di Sassari. Ah, non sapete che qua non si può pescare, che pescano solo i residenti, cioè devono avere il permesso del comune. Ho detto no, questo non lo sapevo. Dice, cosa avete pescato? Niente. E allora piegate le carte, andatevene perché sennò siete in busta. Se avete pescato qualcosa avevate prelevato una busta di oltre 1.000 euro. E gli ho detto, ma questi qua me mi stanno prendendo in giro. Ho chiamato la capitaneria di Porto di Alghero e mi hanno detto che ci hanno voluto bene, se no c'è un verbale lungo che nemmeno io ci ho visto di lungarlo. Capito? Meno male che li ho nascosti, ho avuto un sesto senso. E a te già? Cosa? Quindi manco lì ci può andare a Fertiglia a pescare già? Non lo so, a me ne hanno beccato, non a Fertiglia ne hanno beccato una piletta Mugoni, però non era in stagione, era fuori stagione, era in primavera, quando ne hanno beccato. E meno male che, come li ho visti, hanno nascosto il pesce subito, se no, e non mi hanno visto soprattutto. Se no c'era una multa grossa, stavo pregando che non si muovesse, ero cagato sotto, stavo pregando che non si muovesse il pesce, se no mi scamavo. È minimo, allora non conviene andare anche in Chivi. Vabbè, là, già, io devo cenare adesso, mi misuro la glicemia e ceno. Se ci sei già entro dopo, là. E adesso vado a portare il cane io, ne approfitto. Anche io porto il cane e poi ceno, mi guarderò un po' di televisore, non lo so, vediamo porcheria al televisore perché non c'è più nulla. Ciao, ciao, buona carica, la carica, ciao. CQ10, CQ canale 10, CQ canale 10. Sono Joker, ci sei? Antonio, sono Joker, ci sei? Antonio, sono Joker, ci sei?